Dare qui un resoconto veridico del bel mondo londinese, in questa o in qualsiasi altra epoca, è cosa che trascende il compito del biografo o dello storico. Solo quelli che hanno poco bisogno e poco rispetto per la verità, i poeti e i romanzieri, potrebbero trattare l'argomento, perché è uno dei casi in cui la verità non esiste. Nulla esiste, tutto quanto è un miasma, un miraggio. Per dirla semplicemente, Orlando tornava a casa da una di queste feste alle 3 o alle 4 del mattino, con le guance come un albero di Natale, gli occhi stellanti, si slacciava un merletto, misurava una dozzina di volte la stanza, si slacciava un altro pizzo, si fermava e misurava di nuovo la stanza. Spesso il sole dardeggiava sui camini di Southwark prima che si decidesse ad andare a letto, dove poi continuava a girarsi e rigirarsi, a ridere e sospirare per più di un'ora prima di prendere finalmente sonno. E la causa di tanta irrequietezza? Il bel mondo. E cosa aveva detto o fatto il bel mondo per gettare una signora piena di buonsenso in una tale agitazione? Francamente nulla. Per quanto si lambicasse il cervello, il giorno dopo Orlando non ricordava mai una sola parola che volesse davvero dire qualcosa. Lord O era stato galante, Lord A cortese, il marchese di C affascinante, Mr. M divertente. Ma quando cercava di ricordare in cosa fossero consistiti la loro galanteria, la loro cortesia, il loro fascino e il loro spirito, era costretta a pensare che la memoria la tradisse, perché non ricordava una sola cosa. Era sempre così. All'indomani non restava nulla, eppure l'eccitazione del momento era intensa. Siamo quindi costretti a concludere che la società è una di quelle bevande che le brave padrone di casa servono calde a Natale e il cui aroma dipende da una giusta mistura e fusione di una dozzina di ingredienti diversi. Assaggiatene uno ed è scipito. Prendete Lord A, Lord O, il marchese di C o Mr. M, ciascuno di loro singolarmente non è nulla. Mescolateli insieme e si combineranno per offrirvi il più inebriante degli aromi, il più attraente dei profumi. Eppure questa ebbrezza, questa seduzione, sfuggono completamente alla nostra analisi. Dunque il bel mondo è al tempo stesso tutto e nulla. Il bel mondo è la pozione più potente del mondo e il bel mondo non esiste affatto. Di questi nulla qualcosa che sostanziano le loro opere fino a gonfiarle enormemente. Soltanto i poeti e i romanzieri possono trattare, e quindi siamo felicissimi di cedere loro questo incarico. Seguendo dunque l'esempio dei nostri predecessori, diremo solo che il bel mondo, durante il regno della regina Anna, era di uno splendore impareggiabile. Esservi introdotti era l'aspirazione di ogni persona ben nata. La grazia vi sovrabbondava. I padri istruivano i figli, le madri le figlie. Nessuna educazione poteva dirsi completa per nessuno dei due sessi se non comprendeva la scienza del portamento, l'arte di fare inchini e riverenze, la padronanza della spada e del ventaglio, la cura dei denti, il modo di atteggiare le gambe e di flettere il ginocchio, il modo giusto di entrare e uscire da una stanza con mille eccetera, come ricorderà immediatamente chiunque abbia frequentato il bel mondo. Poiché Orlando aveva meritato le lodi della regina Elisabetta per il modo in cui da ragazzo aveva porto una coppa di acqua di rose, bisogna supporre che fosse sufficientemente esperta per essere giudicata in regola. È vero però che la sua distrazione talvolta la rendeva goffa. Era capace di pensare alla poesia quando avrebbe dovuto pensare al taffetà. Il suo passo forse era un po' troppo energico per una donna e i suoi gesti improvvisi potevano mettere in pericolo qualche tazza di tè. Sia che questa lieve goffaggine fosse sufficiente a compensare lo splendore del suo portamento, sia che avesse ereditato una goccia di troppo di quell'umor nero che correva nelle vene di tutta la sua razza, fatto sta che non era ancora stata nel bel mondo una dozzina di volte e già, se ci fosse stato a sentirla qualcuno oltre a suo Spaniel Pippin, avrebbe potuto udirla chiedersi che diavolo mi succede. Questo accadeva un martedì, il 16 giugno 1712. Orlando era appena tornata da un gran ballo ad Arlington House. C'era l'alba in cielo e lei si stava togliendo le calze. «Non mi importa di non vedere mai più anima viva!» esclamò, scoppiando in lacrime. Di corteggiatori ne aveva bizzeffe, ma la vita, che dopo tutto a suo modo è cosa di una certa importanza, le sfuggiva. È questo domandò, ma non c'era nessuno a risponderle. È questo, finì ugualmente la domanda, quel che chiamano vita? Lo Spaniel alzò la zampa anteriore in segno di simpatia. Leccò Orlando con la lingua. Orlando accarezzò lo Spaniel. Orlando baciò lo Spaniel sul muso. In breve tra loro regnava la più totale comprensione che possa esistere tra cane e padrona. Eppure è innegabile che la mancanza di parola negli animali è un grande ostacolo all'approfondimento del rapporto. Scodinzolando, piegano la parte anteriore del corpo e alzano quella posteriore. Si rotolano, zampettano, raspano, guaiscono, abbaiano, sbavano, hanno una vasta gamma di riti e cerimonie, ma tutto è inutile, dato che non sanno parlare. Era questo che lei rimproverava, pensò, posando delicatamente il cane a terra, ai grandi personaggi di Arlington House. Anche loro scodinzolano, si inchinano, si rotolano, saltano, raspano, sbavano, ma non sanno parlare. In tutti questi mesi che sono stata nel bel mondo, disse Orlando lanciando una calza all'altro lato della stanza, non ho sentito nulla che non sappia dire anche Pippin. Ho freddo, sono felice, ho fame, ho preso un topo, ho sotterrato un osso. Per favore, baciatemi il naso. E questo non bastava. Come fosse passata in così breve tempo dall'ebbrezza al disgusto? Cercheremo di spiegarlo supponendo che questo misterioso composto che chiamano bel mondo non sia nulla di assolutamente buono o cattivo in sé, ma contenga un certo spirito, volatile eppure potente, che vi inebria quando lo credete delizioso, come lo aveva creduto Orlando, o vi dà il mal di testa quando lo credete, come lo credeva Orlando, repellente. Che la facoltà di parlare abbia molto a che fare con questo, in un senso o nell'altro, ci permettiamo di dubitarne. Spesso un'ora di silenzio è la più inebriante di tutte. Uno spirito brillante può essere tedioso oltre ogni dire, ma lasciamo questo argomento ai poeti e proseguiamo la nostra storia. Orlando lanciò la seconda calza dietro alla prima e andò a letto, abbastanza triste. Ma ancora una volta, come ben presto fu evidente, era stata troppo precipitosa nella decisione. La mattina dopo, svegliandosi, trovò infatti sul tavolo, tra gli altri, un invito che le proveniva da una certa gran dama, la contessa di R. Possiamo spiegare il comportamento di Orlando, che nottetempo aveva deciso di rinunciare al bel mondo e che ora si affrettava a inviare un messaggero a R. House informandola che accettava l'invito col più grande piacere. Solo ricordando che risentiva ancora l'effetto delle tremelate parole che il capitano Nicholas Benedict Bartolus le aveva insinuato all'orecchio sul ponte della Enamored Lady mentre veleggiavano lungo il Tamigi. Addison, Dryden, Pope, aveva detto indicando la palma di cocco. E quei nomi di Addison, Dryden e Pope da allora le erano risuonati in testa come un incantesimo. Era dunque tanto sconsiderata? Eppure era proprio così. Tutta la sua esperienza con Nick Green, il poeta, non le aveva insegnato nulla. Nomi come quelli esercitavano ancora su di lei il fascino più potente. A qualcosa bisognava pur credere, e poiché Orlando, l'abbiamo detto, non credeva nelle solite divinità, prestava fede ai grandi uomini. Ma con una distinzione. Ammiragli, soldati, uomini di Stato non la commuovevano affatto, ma il solo pensare a un grande scrittore suscitava in lei un tale abisso di fede da farglielo quasi ritenere invisibile. E il suo istinto non sbagliava. Forse si può credere interamente solo in ciò che non si può vedere. L'occhiata fuggevole che aveva dato dal ponte della nave a questi grandi uomini aveva la natura delle visioni. Dubitava che la loro tazza fosse di porcellana e il loro giornale di carta. Quando Lord O un giorno le aveva detto di essere stato a cena con Dryden la sera prima, non gli aveva creduto affatto. Ora il salotto della contessa di Er godeva la fama di essere l'anticamera che ammetteva alla presenza dei geni. Era il luogo dove uomini e donne si radunavano per bruciare incensi e cantare inni al busto del genio in una nicchia della parete. Talvolta il Dio stesso concedeva la sua presenza per un momento. A farvi ammettere il supplicante valeva solo l'intelligenza e, a quanto si diceva, non vi si pronunciava parola che non fosse spiritosa. Fu dunque con gran trepidazione che Orlando entrò nella stanza dove trovò un gruppo di persone già riunite a semicerchio intorno al fuoco. Lady Eyre, una signora anziana di carnagione bruna, con una mantiglia di merletto nero in testa, sedeva al centro in una grande poltrona. Così, dato che era un po' sorda, poteva guidare la conversazione a destra e a sinistra. Ai suoi lati sedevano uomini e donne della più grande distinzione. Ogni uomo presente, si diceva, era stato primo ministro e ogni donna, si sussurrava, era stata l'amante di un re. Certo è che era tutta gente brillante e famosa. Orlando prese posto con un grande inchino in silenzio. 3 ore dopo si inchinò profondamente e uscì. Ma si chiederà il lettore con una certa impazienza che cosa era successo nel frattempo. Nell'arco di 3 ore una compagnia come quella deve aver detto le cose più spiritose, più profonde, più interessanti del mondo. Così almeno parrebbe. Ma di fatto sembra che non dicessero nulla. È una caratteristica curiosa che i più brillanti salotti del mondo condividono. La vecchia Madame du Deffand e i suoi amici parlarono per 50 anni senza mai fermarsi. E di tutto ciò che cosa resta? Sì e no, 3 battute spiritose. Cosicché siamo liberi di supporre o che non dicessero nulla di spiritoso, oppure che le 3 battute spiritose siano state frazionate in 18.250 sere, il che riduce drasticamente la razione di spirito per ciascuna serata. La verità, a quanto pare, se ci è concesso usare la parola in un simile caso, la verità è che tutti questi gruppi di persone sono colpiti da un incantesimo. La padrona di casa è la nostra moderna Sibilla, è la strega che tiene i suoi ospiti sotto un incanto. In questa data a casa essi si credono felici, in quell'altra spiritosi, in una terza profondi. È tutta un'illusione. Nulla di male, perché le illusioni sono la cosa più preziosa e necessaria che ci sia al mondo, e la donna che è capace di crearne è una delle più grandi benefattrici dell'umanità. Ma è noto che le illusioni vanno in frantumi a contatto con la realtà, cosicché non c'è vera felicità, né vero spirito, né vera profondità che siano tollerati dove regna l'illusione. Questo serve a spiegare perché Madame du Deffand non disse più di 3 battute di spirito nel corso di 50 anni. Se ne avesse dette di più, la sua cerchia sarebbe andata distrutta. L'arguzia che le usciva dalle labbra rotolava sulla conversazione in corso come una palla di cannone che rada al suolo viole e margherite. Quando pronunciò il suo celebre Mot de Saint-Denis, l'erba stessa fu bruciacchiata. Seguirono delusione e desolazione. Non una parola fu pronunciata. «Per amor del cielo, madame, risparmiateci un'altra battuta del genere!» gridarono in coro i suoi amici. Lei obbedì. Per quasi 17 anni non disse nulla di memorabile e tutto andò liscio. La splendida coltre d'illusione gravò compatta sul suo salotto come su quello di Lady Eyre. Gli ospiti si credevano felici, si credevano spiritosi, si credevano profondi, e poiché lo credevano, altri lo credettero ancora più fermamente. E così corse la voce che non ci fosse nulla di più delizioso delle serate di Lady R. Tutti invidiavano quelli che vi erano ammessi, quelli che vi erano ammessi invidiarono se stessi perché li invidiavano gli altri. E insomma un circolo vizioso senza fine, tranne quella che ora dobbiamo riferire. La terza volta che Orlando si recò là, accadde un incidente. Aveva ancora l'illusione di ascoltare i più brillanti epigrammi del mondo, anche se in realtà il vecchio generale C stava raccontando dettagliatamente come la gotta gli fosse passata dalla gamba sinistra alla destra, mentre Mister L interrompeva ogni volta che veniva fatto il nome di qualcuno. R? Oh, conosco Bill R, a Menadito. S? Oh, il mio più caro amico. Passato con lui 2 settimane nello Yorkshire. Cose che, tante la forza dell'illusione, suonavano come il più brillante fuoco di fila di arguzie, la più penetrante riflessione sulla vita umana. E la compagnia andava in visibilio, quando ecco che la porta si aprì, ed entrò un ometto di cui Orlando non afferrò il nome. Subito si sentì invasa da una sensazione stranamente sgradevole. A giudicare dalle facce, anche agli altri accadeva lo stesso. Un gentiluomo disse che c'era corrente d'aria. La marchesa di C manifestò il timore che sotto il sofà ci fosse un gatto. Era come se gli occhi si aprissero loro lentamente dopo un bel sogno, per non vedere altro che una brocca da 4 soldi e un copriletto sporco. Era come se i fumi di qualche vino delizioso svaporassero da loro a poco. Il generale parlava ancora e Mister L ricordava ancora, ma il collo rosso del generale e la testa pelata di Mister L diventavano sempre più evidenti. Quanto ai loro discorsi, era inimmaginabile qualcosa di più uggioso e più banale. Tutti si agitavano sulle sedie e chi aveva un ventaglio vi sbadigliava dietro. Finalmente Lady R picchiò col suo sul bracciolo della grande poltrona. I due gentiluomini tacquero. Allora l'ometto disse. Egli disse infine. Quindi è innegabile. C'era vero spirito, vera saggezza, vera profondità. La compagnia precipitò nello sgomento più completo. Passi per una di quelle battute, ma tre, una dopo l'altra, nella stessa sera, nessun salotto avrebbe potuto sopravvivervi. Mister Pope, disse la vecchia Lady R, con una voce tremante di furia sarcastica, voi vi compiacete del vostro spirito. Mister Pope avvampò. Nessuno disse parola. Per una ventina di minuti seguì un silenzio di morte. Poi, a uno si alzarono e se la svignarono. Dopo un'esperienza simile, era improbabile che sarebbero mai più tornati. Si udirono gli staffieri chiamare le carrozze per tutta South Audley Street. Gli sportelli sbatterono. Le carrozze si allontanarono, rotolando. Sulla scalinata Orlando si trovò vicina a Pop. La sua figura gracile e deforme era scossa da un ventaglio di emozioni. Gli scoccavano dagli occhi dardi di malizia, rabbia, trionfo, arguzia e terrore. Tremava come una foglia. Sembrava un rettile raggomitolato con un topazio fiammeggiante in fronte. Contemporaneamente, la più strana tempesta emotiva si abbatteva sulla sfortunata Orlando. Una delusione così totale come quella di cui era stata vittima meno di un'ora prima lasciava l'animo nella tempesta. Ogni cosa sembrava 10 volte più cruda e brutale di prima. Momenti simili sono i più pericolosi per lo spirito umano. In momenti simili le donne si fanno suore e gli uomini preti. In momenti simili l'uomo ricco si spoglia dei suoi beni e l'uomo felice si taglia la gola con un coltello da cucina. Tutto questo Orlando lo avrebbe fatto volentieri, ma c'era una cosa ancor più sconsiderata che poteva fare e la fece. Invitò Poppa ad accompagnarla a casa. Se è sconsiderato avventurarsi inerme nella tana di un leone, sconsiderato navigare nell'Atlantico su una barca a remi, sconsiderato stare su un piede solo sulla cima del campanile di San Paolo, è ancora più sconsiderato tornarsene a casa soli con un poeta. Un poeta è insieme l'Atlantico e il leone. L'uno ci sommerge, l'altro ci azzanna. Se sfuggiamo alle zanne, soccombiamo alle onde. Un uomo che ha il potere di distruggere le illusioni è al tempo stesso belva e onda. Le illusioni sono per l'anima ciò che l'atmosfera è per la terra. Toglietele quell'aria tenera e la pianta morirà. I colori svaniranno. La terra su cui camminiamo è cenere estinta. È marga quella che calpestiamo e ciottoli spietati ci feriscono i piedi. La verità ci annienta. La vita è un sogno e il risveglio ad ucciderci. Chi ci deruba dei sogni, ci deruba della vita. E così via, se volete, per 6 pagine, ma lo stile è noioso ed è meglio tagliar corto. Di questo passo, tuttavia, quando la carrozza si fermò davanti alla sua casa di Blackfriars, Orlando avrebbe dovuto essere ridotta a un mucchio di cenere. Che fosse tuttora in carne e ossa, anche se certamente sfinita, lo si deve esclusivamente al fatto su cui abbiamo già richiamato l'attenzione nel corso del racconto. Meno vediamo, più crediamo. Ora le strade tra Mayfair e Blackfriars erano a quel tempo scarsamente illuminate. È vero che l'illuminazione era molto migliorata rispetto all'epoca elisabettiana. Allora il viandante notturno doveva fidarsi delle stelle o del lume rosso di qualche guardia di notte per non finire nelle cave di ghiaia di Park Lane. O smarrirsi nei boschi di querce dove grufolava il cinghiale intorno a Tottenham Court Road. Ma anche così eravamo ben lontani dalla nostra moderna efficienza. Ogni 200 metri circa si incontrava un lampione a olio, ma tra l'uno e l'altro si stendeva un bel tratto di buio pesto. Quindi per 10 minuti Orlando e Pop si trovavano al buio e poi, per un mezzo minuto, di nuovo in luce. Questo induceva in Orlando uno stato d'animo molto singolare. Via via che la luce si dileguava, si sentiva irrorare dal più delizioso balsamo. È davvero un grande onore per una giovane donna andare in carrozza con Pop. Cominciò a pensare, sbirciando il profilo del naso di lui. Sono la più fortunata del mio sesso. A pochi centimetri da me sento il nastro che è intorno al ginocchio premermi la coscia. C'è l'ingegno più brillante di tutti i domini di Sua Maestà. I secoli futuri penseranno a noi e a me con invidia sfrenata. Qui sopraggiunse un altro lampione. Che povera stupida sono, pensò Orlando. Fama e gloria non esistono. I secoli venturi non si sogneranno neanche di pensare a me o a Pop. Che cos'è un secolo del resto? Che cosa siamo noi? E attraversavano Berkeley Square come due formiche cieche, momentaneamente accozzate, senza interesse né scopo comune in un deserto di tenebre. Orlando rabbrividì, ma ecco di nuovo il buio. L'illusione si ripeté. Che fronte nobile ha, pensò, scambiando nell'oscurità la sporgenza di un cuscino per la fronte di Pope. Quale genio ponderoso contiene, quanto spirito, saggezza e verità, che vera profusione di tutti quei tesori per i quali la gente è pronta a dare la vita. La vostra è l'unica luce che arda perenne. Se non fosse per voi, il pellegrinaggio umano si compirebbe nel buio più totale. A questo punto, la carrozza dette un gran sobbalzo sprofondando in una carreggiata di Park Lane. Senza il genio saremmo sbaragliati e distrutti. Tu, il più angusto e luminoso dei fari. Così apostrofava la sporgenza del cuscino, quando passarono sotto uno dei lampioni di Berkeley Square. E lei si accorse dell'errore. La fronte di Pope non era più alta di quella di un altro. Miserabile, pensò, come mi hai delusa. Ho scambiato quella sporgenza per la tua fronte. Quanto sei ignobile, quanto sei spregevole a vederti bene in faccia. Deforme e malaticcio, in te non c'è nulla da venerare, ma molto da compiangere, moltissimo da disprezzare. Erano di nuovo nel buio e la sua rabbia si calmò appena non vide altro che le ginocchia del poeta. No, sono io la miserabile, rifletté, quando furono di nuovo nell'oscurità completa. Per vile che tu sia, non sono più vile io. Sei tu che mi nutri e mi proteggi, tu che metti in fuga la belva, spaventi il selvaggio, mi tessi le vesti col filo del baco da seta e i tappeti con la lana della pecora, e al mio bisogno di adorazione non hai provveduto con un'immagine di te che hai innalzato in cielo? Non ci sono dovunque le prove della tua sollecitudine? Quanto dovrei dunque essere umile, grata e docile? Oh, fa che io possa servirti, onorarti e obbedirti con tutta me stessa. Qui erano arrivati al grande lampione, all'angolo dell'attuale Piccadilly Circus. Alla luce abbagliante, Orlando vide, oltre ad alcune creature degradate del suo sesso, due miserabili pigmei, in un deserto desolato. Entrambi erano nudi, solitari e inermi. L'uno era impotente ad aiutare l'altro. Ognuno aveva abbastanza da fare a badare a se stesso. È ugualmente vano che tu creda di potermi proteggere come io di poterti adorare, pensò Orlando, guardando Pope dritto in faccia. La luce della verità ci investe crudamente e la luce della verità ci imbruttisce tremendamente, entrambi. S'intende che per tutto il tempo continuarono a discorrere con amabilità, come fanno le persone ben nate e bene educate. Sull'umore della regina e la gotta del primo ministro, mentre la carrozza passava dalla luce all'ombra, giù per Haymarket, lungo lo Strand, su per Fleet Street e infine arrivava alla sua casa di Blackfriars. Da ultimo, i tratti bui fra un lampione e l'altro si erano fatti più chiari e la luce stessa dei fanali meno viva, cioè stava spuntando il sole. E fu alla luce uguale ma indistinta di un mattino d'estate, in cui tutto è visibile ma nulla appare chiaro, che scesero dalla carrozza. Pope offrì il braccio a Orlando e Orlando invitò con un inchino Pope a precederla nella sua dimora con la più scrupolosa osservanza del rito delle grazie. Il passo precedente non deve tuttavia far supporre che il genio, ma la malattia è ormai scomparsa dalle isole britanniche, si dice che il defunto Lord Tennyson sia stato l'ultimo a soffrirne, sia una luce costantemente accesa. Altrimenti vedremmo tutto tanto chiaro da correre a lungo andare il rischio di essere bruciati vivi. Somiglia piuttosto a un faro in azione che manda un raggio e poi per un tratto più nulla. Salvo che il genio è assai più capriccioso nelle sue manifestazioni e capace di lanciare 6 o 7 raggi in rapida successione, come fece Pope quella notte, e poi abbuiarsi per un anno o per sempre. Procedere alla luce dei suoi raggi è dunque impossibile, e quando sono nella fase nera gli uomini di genio, si dice, rassomigliano molto agli altri mortali. Per Orlando fu una fortuna che così fosse, malgrado l'iniziale delusione, perché da allora cominciò a frequentare la compagnia di uomini di genio. Non erano poi così diversi da noi quanto si potrebbe supporre. Scoprì che Edison, Pope, Swift avevano una passione per il tè, amavano i pergolati, collezionavano pezzetti di vetro colorato, adoravano le grotte, non disdegnavano gli onori, erano deliziati dalle lodi. Un giorno vestivano di color prugna, un altro di grigio. Swift aveva un bel bastone di malacca, Addison si profumava i fazzoletti, Pope soffriva di emicrania. Non si privavano di qualche pettegolezzo e avevano le loro gelosie. Annotiamo qualcuna delle riflessioni che venivano in mente ad Orlando così alla rinfusa. All'inizio Orlando si rimproverò di dare peso a simili inezie e tenne un taccuino su cui annotare i loro detti memorabili. Ma la pagina rimase vuota. Tuttavia ritrovò il buon umore e cominciò a strappare i biglietti d'invito ai grandi ricevimenti. Si tenne libere le serate, cominciò ad agognare la visita di Pope, di Addison, di Swift, eccetera, eccetera. Se il lettore a questo punto vorrà consultare Il Ricciolo Rapito o Lo Spectator o I Viaggi di Gulliver, capirà con più precisione il significato di queste parole misteriose. Biografi e critici potrebbero ben risparmiarsi le fatiche se i lettori seguissero questo consiglio, perché quando leggiamo, sia che la ninfa infranga la legge di Diana o che si incrini un fragile vaso di porcellana, sia che macchi il suo onore o il suo nuovo broccato, che scordi la preghiera oppure la mascherata, o perda il cuore o la collana o un ballo. Questi sono versi di Pope. Sappiamo, come se l'avessimo udito, come guizzava la lingua di lucertola di Pope, come fiammeggiavano i suoi occhi, come tremava la sua mano. Sappiamo come amava, come mentiva, come soffriva. Insomma, ogni segreto dell'anima di uno scrittore, ogni sua esperienza di vita, ogni sua qualità intellettuale è chiaramente leggibile nelle sue opere. Eppure, abbiamo ancora bisogno di critici per spiegarci questo e dei biografi per chiarirci quest'altro. Che il tempo onnubila la gente è la sola spiegazione di questa proliferazione mostruosa. Così, dopo aver letto un paio di pagine del Ricciolo Rapito, sapremo esattamente perché Orlando quel pomeriggio fosse tanto divertita e spaventata, perché avesse le guance così colorite e gli occhi così vivi. Poi, Mistress Nelly bussò alla porta e disse che Mr. Addison desiderava visitare sua signoria. A quelle parole Pope si alzò con un sorriso beffardo, si congedò e uscì zoppicando. Entrò Addison. Mentre si accomoda, leggiamo questo passo dello Spectator. Considero la donna uno splendido animale romantico, che si può adornare con ornamenti di pellicce e di piume, perle e diamanti, ninnoli e sete. La lince deporrà la pelle ai suoi piedi per farle un mantello, il pavone, il pappagallo e il cigno contribuiranno al manicotto. Si frugherà il mare per trarne conchiglie e le rocce per cavarne gemme, e ogni parte della natura pagherà il tributo per l'abbellimento di una creatura che ne è l'opera più perfetta. Tutto ciò lo concedo di buon grado alle donne, ma in quanto alla gonna di cui ho parlato, non posso né vorrò mai consentirvi. Lo Spectator è uno dei primi più importanti periodici del Settecento e fu diretto da Steele e Addison e ripreso da Addison più tardi. Teniamo sul palmo della mano questo gentiluomo, tricorno e tutto. Guardiamo ancora nella lente. Non è chiaro fino alla piega delle calze. Non abbiamo sotto gli occhi ogni ruga, ogni piega del suo spirito, la sua benignità e la sua timidezza e la sua cortesia, e il fatto che sposò una contessa e infine fece una morte oltremodo rispettabile. Tutto è chiaro. E quando Addison ha detto la sua, si sente un tremendo picchio alla porta e Swift, che aveva questi modi arbitrari, entra senza farsi annunciare. Un momento, dove sono i viaggi di Gulliver? Ah, eccoli, leggiamo un brano del viaggio al paese degli Oinsus. Godevo allora di perfetta salute di corpo e serenità di spirito. Non avevo incontrato né il tradimento o l'incostanza di un amico, né gli oltraggi di un nemico segreto palese. Non avevo occasione di brigare, né di adulare, né di arruffarmi per accaparrarmi il favore di un potente o del suo favorito. Non avevo bisogno di baluardo contro la frode e l'oppressione. Qui non c'era medico che mi distruggesse il corpo, né avvocato che mi rovinasse gli averi. Nessun delatore che per mercede spiasse le mie parole ed azioni e architettasse accuse contro di me. Qui non c'erano schernitori, né censori, né calunniatori, né borsaioli, né masnadieri, né scassinatori, né procuratori, né mezzani, né buffoni, né biscazzieri, né politicanti, né begli spiriti, né atrabiliari tediosi chiacchieroni. Ma basta, basta con questa grandine ferrigna di parole. Finirete per scorticarci vivi tutti quanti, voi compreso. Non c'è nulla di più crudo di quell'uomo violento. È così rude, eppure così limpido, così brutale, eppure così gentile. Disprezza il mondo intero, eppure vezzeggia una fanciulla. E morirà, possiamo dubitarne, in manicomio. Orlando dunque serviva il tè a tutti quanti, e talvolta, quando era bel tempo, li portava con sé in campagna, trattandoli regalmente nella sala rotonda, dove aveva appeso i loro ritratti tutti intorno, cosicché Pope non poteva lamentarsi di venire dopo Addison o viceversa. Erano anche molto spiritosi, ma il loro spirito è tutto nei loro libri. E le insegnavano la cosa più importante dello stile, che è il tono di voce naturale, qualità inimitabile in chi non l'abbia udita dal vivo, neppure da Nick Green il poeta, con tutta la sua abilità, perché è frutto dell'aria, si infrange come un'onda sui mobili, rotola via svanendo e non può essere catturata. Men che mai da quelli che mezzo secolo dopo tendono l'orecchio in quel tentativo. Questo le insegnarono unicamente con la cadenza delle voci nel parlare, ragion per cui il suo stile cambiò un po' e scrisse versi oltremodo graziosi e ingegnosi e qualche ritratto in prosa, e così profondeva loro i suoi vini, e a cena infilava sotto i loro piatti banconote che essi intascavano di buon grado, e accettava le loro dediche, ritenendosi altamente onorata nello scambio. Così il tempo passava. E spesso si sarebbe potuto sentire Orlando dire a se stessa, con un'enfasi che al lettore apparirebbe un po' sospetta: per l'anima mia, che vita è mai questa? Perché era sempre in cerca di quella merce. Ma le circostanze la costrinsero ben presto a essere più concreta. Un giorno stava versando il tè a Pope, chiunque può dedurlo dai versi sopracitati, che se ne stava lì col suo sguardo vivo e indagatore, tutto raggomitolato in una vicina poltrona. Signore, pensava Orlando alzando la pinza dello zucchero, come mi invidieranno le donne dei secoli futuri. Eppure si fermò. Pope richiedeva la sua attenzione. Eppure, completiamo noi il suo pensiero, quando qualcuno dice come mi invidieranno le generazioni future, si può star certi che si trova malissimo nel presente. Quella vita era poi così emozionante, così gratificante, così brillante, come sembra dopo essere stata cesellata dal memorialista. In primo luogo Orlando aveva un autentico odio per il tè. In secondo luogo l'intelletto, pur essendo divino e adorabile, ha l'abitudine di dimorare nelle più logore carcasse e spesso, ahimè, divora le altre facoltà. Cosicché spesso, là dove lo spirito è più grande, al cuore, ai sensi, alla magnanimità, alla carità, alla tolleranza, alla gentilezza, rimane appena posto per respirare. C'è poi l'alta considerazione che i poeti hanno di se stessi e la scarsa considerazione che hanno per gli altri. Poi le inimicizie, le offese, le invidie, le polemiche in cui sono costantemente impegnati. Poi la volubilità con cui comunicano. Poi la rapacità con cui esigono la simpatia altrui. Tutto questo, sussurrato perché non ci sentano i begli spiriti, fa sì che servire il tè, diventi un'occupazione più precaria e ardua di quanto si creda in generale. Aggiungiamo, sussurrando di nuovo perché non ci sentano le donne, che c'è un piccolo segreto che gli uomini si tramandano. Lord Chesterfield, statista e diplomatico, l'ha bisbigliato al figlio sotto rigorosa ingiunzione di segreto. Le donne non sono che bambine cresciute. Un uomo di buon senso si trastulla con loro, le compiace e le lusinga. Ma dato che i bambini sentono sempre quello che non dovrebbero, e qualche volta perfino crescono, la cosa può essere in parte trapelata se la cerimonia di servire il tè è diventata una cerimonia curiosa. Una donna sa benissimo che, per quanto un bello spirito possa mandarle i suoi versi, lodare i suoi giudizi, sollecitare le sue critiche e bere il suo tè, questo non significa affatto che egli rispetti le sue opinioni, ammiri la sua intelligenza e rinunci, poiché lo stocco gli è negato, a trafiggerla con la sua penna. Tutto ciò, diciamo per quanto lo sussurriamo il più possibile a bassa voce, può essere trapelato, per cui, col bricco del latte a mezz'aria e la pinza dello zucchero protesa, una signora può perdere un tantino la pazienza, dare un'occhiatina fuori di finestra, sbadigliare un po' e lasciar cadere con un gran tonfo lo zucchero nella tazza di Pope, proprio come fece ora Orlando. Mai ci fu un mortale più pronto di Pope a sospettare un'offesa o più rapido a vendicarsene. Si voltò verso Orlando e subito la gratificò della stoccata di un famoso verso dei suoi ritratti femminili, la satira. In seguito gli fu dedicato molto lavoro di lima, ma anche nella versione originale era abbastanza mordace. Nulla c'è di più vero di quel che un giorno hai detto. Le donne, per lo più, non han carattere affatto, scriveva Pope. Orlando lo accolse con una riverenza. Pope si congedò con un inchino. Per rinfrescarsi le guance, Orlando, che si sentiva davvero come se quell'ometto le avesse dato uno schiaffo, fece una passeggiata nel boschetto di noci in fondo al giardino. L'aria fresca agì subito. Scoprì con sorpresa di sentirsi grandemente sollevata di trovarsi sola. Guardò le barche da carico che a furia di remi risalivano allegramente il fiume, vista che senza dubbio le richiamò alla mente un paio di episodi della vita passata. Sedette sotto un bel salice, immersa in profonda meditazione, vi rimase finché apparvero le stelle. Allora si alzò, si volse e tornò in casa, dove si ritirò in camera sua e chiuse la porta a chiave. Quindi aprì un armadio dove erano ancora appesi molti degli abiti che aveva portato quando era un giovane elegante, e tra questi scelse un vestito di velluto nero riccamente guarnito di merletto veneziano. Era un po' fuori moda, per la verità, ma le stava a pennello e le dava proprio l'aria di un nobile lord. Fece un paio di piroette davanti allo specchio per accertarsi che le gonne non le avessero fatto perdere la scioltezza delle gambe, e uscì di casa alla chetichella. Era una bella notte d'inizio aprile. Una miriade di stelle, frammiste al chiarore della falce lunare, ravvivata dai lampioni delle strade, creavano una luce che si addiceva perfettamente alla figura umana e all'architettura di Wren. Ogni cosa assumeva la forma più delicata, ma proprio quando pareva sul punto di dissolversi, qualche goccia d'argento la rianimava vividamente. Ecco come dovrebbe essere la conversazione, pensava Orlando, indulgendo in assurde fantasticherie. Come dovrebbe essere la società, l'amicizia, l'amore? Il cielo sa il perché, proprio nel momento in cui abbiamo perduto la fede nella relazione umana, un accostamento fortuito di granai e alberi, o di un fienile, di un carretto, ci offre un simbolo così perfetto dell'irraggiungibile che ricominciamo la ricerca. Facendo queste riflessioni, Orlando era giunta all'Leicester Square. Gli edifici avevano una simmetria aerea e insieme rigida che alla luce del giorno non possedevano. La volta del cielo sembrava abilmente dipinta per completare i contorni dei tetti e dei camini. Una giovane seduta in posa sconsolata su un sedile sotto un platano, in mezzo alla piazza, con un braccio disteso lungo il fianco e l'altro abbandonato in grembo, pareva l'immagine stessa della grazia, della semplicità e della desolazione. Orlando la salutò con una gran scappellata, da uomo di mondo che in pubblico presenti i suoi rispetti a una dama elegante. La giovane alzò il capo. Era della più squisita armonia di forme. La giovane alzò gli occhi. Orlando li vide brillare della lucentezza che si vede talvolta su una teiera, ma raramente su un volto umano. Attraverso quello smalto argenteo, la giovane levò verso di lui, per lei era un uomo, uno sguardo implorante, speranzoso, tremante, timoroso. Si alzò, accettò il suo braccio, perché c'è bisogno di dirlo. Apparteneva allo stuolo di quelle che ogni sera lustrano la loro merce e la espongono sul banco comune in attesa del miglior offerente. Condusse Orlando nella camera di Gerald Street dove abitava. Sentirsela al braccio, lieve ma supplichevole, suscitò in Orlando tutti i sentimenti che si addicono ad un uomo. Sembrava, sentiva e parlava da uomo. Ma essendo stata donna fino a poco prima, sospettò che la timidezza della ragazza, le sue risposte titubanti, il suo modo di armeggiare con la chiave nella toppa, il drappeggio del suo mantello e il modo di piegare il polso fossero tutti espedienti per compiacere la sua virilità. Salirono le scale e la pena che la poverina si era data per agghindare la stanza e nascondere che non ne aveva altre non ingannarono Orlando neanche per un momento. L'inganno suscitò in lei disprezzo, la verità le suscitò compassione. L'una cosa, colorandosi dell'altra, crearono lo stato d'animo più bizzarro, cosicché Orlando non sapeva più se ridere o piangere. Nel frattempo Nell, così si chiamava la ragazza, si sbottonò i guanti, nascose con cura il pollice sinistro che aveva bisogno di un rammendo, poi scomparve dietro un paravento dove forse si mise un po' di belletto sulle guance, si rassettò i vestiti, si annodò al collo un altro fazzoletto, senza smettere di chiacchierare, come fanno le donne per divertire il loro amante. Anche se, dal tono della sua voce, Orlando avrebbe giurato che i suoi pensieri erano altrove. Quando tutto fu in ordine, riapparve pronta. Ma a questo punto Orlando non ce la fece più. In un assurdo groviglio di rabbia, divertimento e pietà gettò la maschera e confessò di essere una donna. Al che Nell scoppiò in una tale risata da farsi sentire all'altro capo della strada. «Ebbene, mia cara», disse quando si fu un po' riavuta, «non me ne dispiace per nulla. Tanto per mettere le carte in tavola». Ed era sorprendente la rapidità con cui, appena scoperto che erano dello stesso sesso, aveva cambiato modi e abbandonato il tono lamentoso e supplichevole. Tanto per mettere le carte in tavola, stanotte non ero in vena per la compagnia maschile. Il fatto è che sono in un pasticcio maledetto. Dopodiché, mentre attizzava il fuoco e preparava una tazza di punch, raccontò a Orlando tutta la storia della sua vita. Essendo la vita di Orlando quella che ora ci interessa, non riferiremo le avventure dell'altra dama, ma è certo che Orlando non aveva mai visto le ore passate più in fretta o più allegramente, anche se Nell non aveva un briciolo di spirito, e quando nel discorso venne fuori il nome di Pope, chiese candidamente se era un parente di Pope il parrucchiere di Jermyn Street. Eppure per Orlando era tale l'incanto della naturalezza e la seduzione della bellezza che i discorsi della povera ragazza, benché infarciti delle più volgari espressioni di strada, avevano il sapore di un vino dopo le belle frasi a cui era abituata. E fu indotta a concludere che c'era qualcosa nel sogghigno di Pope, nella condiscendenza di Edison e nel segreto di Lord Chesterfield, che le toglieva il gusto della compagnia dei begli spiriti, anche se continuava a rispettarne profondamente le opere. Constatò che quelle povere creature, perché Nell portò Prue e Prue Kitty e Kitty Rose, formavano una società particolare di cui l'avevano ammessa a far parte. Ognuna raccontava le avventure che l'avevano condotta a quel genere di vita. Parecchie erano figlie naturali di conti e una era un po' più vicina del necessario alla persona del re. Nessuna era tanto miserabile o tanto povera da non avere in tasca qualche anello o fazzoletto in luogo dell'albero genealogico. Così sedevano intorno alla coppa del punch, che Orlando si faceva un dovere di riempire generosamente, e raccontavano una quantità di belle storie e facevano una quantità di osservazioni divertenti, perché è innegabile che quando le donne si trovano insieme, ma zitti, Si assicurano sempre che le porte siano ben chiuse e che non una loro parola finisca stampata. Loro unico desiderio è che... Ma zitti, zitti, non è il passo di un uomo sulla scala? Loro unico desiderio, stavamo dicendo, quando quel signore ci ha tolto la parola di bocca. Le donne non hanno desideri, dice questo signore entrando nel salotto di Nell, soltanto simulazioni. Senza desideri, lei lo ha servito e lui se n'è andato, la loro conversazione non può avere il minimo interesse per nessuno. È noto, scrive S.W., che quando manca loro lo stimolo dell'altro sesso, le donne non trovano più nulla da dirsi. Quando sono sole, non parlano, si grattano. E se tra loro non parlano, e dato che non ci si può grattare all'infinito, e se è noto, lo ha provato RT, che le donne sono incapaci di qualunque sentimento di affetto verso il loro sesso e si detestano sommamente a vicenda, cosa supponiamo che faranno le donne quando cercano la compagnia reciproca? Dato che questo non è un problema che meriti l'attenzione di un uomo di buon senso, sia consentito a noi, che godiamo dell'immunità di tutti i biografi e storici di qualsivoglia sesso, di sorvolare e di limitarci a constatare semplicemente che Orlando provava un gran piacere in compagnia del suo sesso, lasciando a quei signori il compito di provare, cosa che fanno con tanto gusto, che è impossibile. Ma un resoconto esatto e circostanziato della vita di Orlando a quell'epoca diventa sempre più fuori questione. Facendo capolino e avanzando a tentoni per l'intrico di vicoli male illuminati, mal selciati, male aereati che sorgeva allora tra Gerrard Street e Drury Lane, ci pare di intravederla e poi subito di riperderla di vista. Il compito è reso ancora più difficile dal fatto che in quel periodo trovava comodo passare dagli abiti di un sesso a quelli dell'altro. Così accade spesso che nelle memorie del tempo venga menzionata come Lord tal dei tali, che era in realtà suo cugino. A lui viene attribuita la generosità di lei e a lui sono attribuite le poesie che sono in realtà di lei. Pare che non avesse alcuna difficoltà a sostenere le due parti, perché cambiò sesso assai più frequentemente di quanto possano immaginare quelli che hanno sempre portato un solo tipo di abiti. E non c'è dubbio che con questo espediente raccoglieva doppia messe. I piaceri della vita erano accresciuti e le esperienze moltiplicate. Cambiava la proprietà dei calzoni con la seduzione delle gonne e godeva ugualmente l'amore dei due sessi. Possiamo dunque immaginarcela trascorrere la mattina tra i libri, avvolta in una vestaglia cinese di foggia ambigua, e poi nello stesso abbigliamento ricevere un paio di postulanti, ne aveva a dozzine. Quindi fare un giro in giardino e potare i noci, cosa per cui si addicono i calzoni al ginocchio, poi cambiarli con un abito di taffetà a fiori, che meglio si addice a una passeggiata in carrozza a Richmond e alla proposta di matrimonio di qualche gran nobile. Poi tornare in città, dove indossava una veste color tabacco come quella degli avvocati, e capitare in tribunale per sentire come vanno le sue cause, perché il suo patrimonio sfumava di ora in ora e i processi non sembravano più vicini alla conclusione di quanto fossero un secolo prima. Infine, quando scendeva la notte, il più delle volte si trasformava da capo a piedi in un gentiluomo e batteva le strade in cerca di avventure. Al ritorno da qualcuna di quelle scorribande, su cui circolavano a quel tempo parecchie storie, ad esempio che si batteva in duello, che prestava servizio come capitano su una delle navi del re, che era stata vista danzare nuda su un balcone, che era fuggita con una certa signora nei Paesi Bassi, inseguite dal marito della dama, ma sulla verità o meno di queste storie non ci pronunciamo, al ritorno dalle sue occupazioni, qualunque fossero, a volte si sentiva in dovere di passare sotto le finestre di un caffè, dove senza essere vista poteva vedere i begli spiriti e immaginare, dai loro gesti, le frasi sagge, argute o sarcastiche che dicevano, senza udirne una parola. Forse con vantaggio. E una volta restò mezz'ora a guardare dietro una tenda tre ombre che prendevano il tè in una casa di Bolt Court. Mai commedia era stata più interessante. Aveva voglia di gridare: bravi, bravi! E in effetti, che magnifico dramma, che pagina strappata al volume fittissimo della vita umana. C'era la piccola ombra dalle labbra imbronciate, irrequieta, petulante, autoritaria. C'era l'ombra femminile curva che ficcava un dito adunco nella tazza per sentire il livello del tè perché era cieca. E c'era l'ombra di aspetto romano che si dondolava nella grande poltrona, si torceva bizzarramente le dita e muoveva la testa a scatti da una spalla all'altra. E ingurgitava a gran sorsi il tè. Il dottor Johnson, Boswell e Mistress Williams erano questi i nomi delle ombre. Orlando era così presa dalla scena che dimenticò di pensare quanto l'avrebbero invidiata gli altri secoli, cosa che in questo caso era probabilmente vera. Era contenta di guardare e guardare. Alla fine Boswell si alzò, salutò la vecchia signora con asprezza tagliente, ma con quanta umiltà si inchinò poi davanti alla grande ombra romana, che ora si era alzata in tutta la sua statura e sempre dondolando snocciolava le frasi più magniloquenti che mai siano uscite da bocca umana. Così almeno le immaginava Orlando, benché non avesse udito parola dalle tre ombre durante tutto il tempo che erano rimaste sedute a bere il tè. Finalmente, una notte, tornò a casa da una di quelle perlustrazioni e salì nella sua camera. Si tolse la giacca guarnita di pizzi e in camicia e calzoni guardò dalla finestra. C'era nell'aria un che di inquieto che le impediva di andare a letto. Una bruma bianca gravava sulla città. Era una notte gelida di pieno inverno, una veduta magnifica le si stendeva tutto intorno. Vedeva San Paolo, la torre, l'abbazia di Westminster, le guglie e le cupole delle chiese cittadine, le linee ondulate delle banchine, le curve opulente e ampie dei palazzi e degli edifici pubblici. A nord si alzavano brulle le dolci colline di Hampstead, a ovest brillavano fulgide le piazze e le strade di Mayfair. Su quel panorama, sereno e composto, vegliavano le stelle, scintillanti, ferme, dure in un cielo senza nubi. Nell'intensa chiarità dell'atmosfera si distingueva la sagoma di ogni tetto, il cappuccio di ogni camino. Spiccavano distintamente perfino i ciottoli delle strade, e Orlando non poté fare a meno di paragonare quella scena armoniosa col borgo disordinato e confuso che era stata Londra durante il regno della regina Elisabetta. Allora, ricordava, la città, se così poteva chiamarsi, non era che un ammasso di case addossate sotto le sue finestre di Blackfriars. Le stelle si specchiavano in pozze fonde d'acqua stagnante in mezzo alle strade. Un'ombra nera all'angolo, là dove allora c'era la taverna, poteva ben essere il cadavere di un assassinato. Ricordava le grida di tanti feriti in quelle risse notturne, quando era un bambino che la balia alzava fino ai vetri a pannelli della finestra. Bande di ribaldi, uomini e donne, barcollavano per le strade oscenamente abbracciati, berciando canzonacce, con uno scintillio di gemme alle orecchie e un balenio di coltelli nel pugno. In notti come questa, all'orizzonte si profilava l'impenetrabile groviglio delle foreste di Highgate e di Hampstead, che stagliavano in cielo il loro intricato viluppo. Qua e là, sulle colline sovrastanti Londra, c'era una forca nuda con un cadavere inchiodato a marcirvi o a seccarvi. Pericolo, insicurezza, lussuria e violenza, poesia e sozzura infestavano le tortuose strade elisabettiane, ronzavano e puzzavano. Orlando ne ricordava ancora l'effluvio nelle notti calde, negli stambugi e nei vicoletti della città. Ora si affacciò alla finestra. Tutto era luce, ordine e serenità. Le giunse il rotolio attutito di una carrozza sul selciato. Udì il grido lontano della guardia notturna, mezzanotte in punto e gelo domattina. Quelle parole gli erano appena uscite di bocca che risuonò il primo colpo della mezzanotte. Allora Orlando notò per la prima volta una nuvoletta che si era raccolta dietro la cupola di San Paolo. Via via che i rintocchi battevano, la nube si ingrandiva. La vide oscurarsi e diffondersi a velocità straordinaria. Contemporaneamente si alzò una brezza lieve e al sesto rintocco della mezzanotte tutto il cielo a oriente si era coperto di un'ombra irregolare e fluttuante, mentre a ovest e a nord era rimasto chiaro come prima. Poi la nube si diffuse a nord e inghiottì uno dopo l'altro i punti più alti della città. Solo Mayfair smagliante di luci, brillava per contrasto più vivida che mai. All'ottavo rintocco, qualche brandello di nube si stese veloce su Piccadilly. Pareva ammassarsi e avanzare con estrema rapidità verso il West End. Allo scoccare del nono, decimo e undicesimo rintocco, una fitta oscurità si stese su tutta Londra, e al dodicesimo rintocco della mezzanotte l'oscurità fu completa. Un turbinoso tumulto di nubi copriva la città. Tutto era tenebra, tutto era dubbio, tutto era confusione. Il XVIII secolo era finito, nasceva il XIX secolo.